forse per pigrizia, o forse per un sogno che muore, o per affetto, o qualcos'altro ancora. E non ti ho detto ti amo nel giuramento dei sensi, o nell'appiglio delle propensioni. E non ti ho detto ti amo quasi fosse un fiume senza corrente, ma l'amore è destino sui nostri incantesimi, tra popoli bisognosi di angeli lì. Ma allora forse non ti ho detto ti amo, perché son parte di te e di te canterò. Dicembre degli aranci. Non ti ho detto ti amo, forse per pigrizia, o forse per dare spazio a un amore. Le mani al petto, qualcos'altro ancora. Ti ho detto ti amo, piede sulla mia terra, o nella giustizia di una circostanza. E non ti ho detto ti amo, quasi avessi paura come del presente. Ma l'amore è destino sui nostri incantesimi, tra popoli bisognosi di angeli. Forse non ti ho detto ti amo, perché son parte di te e di te canterò. Da qui al dicembre degli aranci. Sono parte di te e di te canterò. Da qui al dicembre degli aranci.